Letture di Radio 24. I racconti fantastici di Ambrose Bierce, uno dei maestri della letteratura horror del XIX secolo, illustrano come a volte i confini tra il mondo reale e quello sovrannaturale siano molto incerti, come in questo breve racconto, dove un funerale viene turbato da un imprevisto. John Mortonson era defunto. Le sue battute nella tragedia umana erano ormai state pronunciate tutte, e lui aveva abbandonato il palcoscenico. La salma riposava in una bella bara di mogano con il coperchio di vetro. Alle 2 del pomeriggio gli amici si sarebbero uniti per rendere il loro ultimo omaggio a uno che di omaggi non aveva più bisogno, come del resto di amici. Ogni 3 o 4 minuti i familiari che gli sopravvivevano entravano separatamente, si accostavano al catafalco e singhiozzavano sui placidi lineamenti che riposavano sotto il coperchio di vetro. Tutto questo non giovava affatto a quegli afflitti, come pure non giovava a John Mortonson. Ma in presenza della morte, la ragione e la filosofia tacciono. Quando ormai mancava poco alle 2 del pomeriggio, cominciarono ad arrivare gli amici e dopo aver offerto ai parenti colpiti dalla sventura quella consolazione che le circostanze imponevano, si sedettero tutti intorno alla camera con aria solenne. Poi giunse il pastore e la sua presenza offuscante eclissò le luci minori. Il suo ingresso fu seguito da quello della vedova, i cui lamenti riempirono la stanza. La donna si avvicinò alla bara e dopo che ebbe poggiato per un momento il viso contro il freddo coperchio di vetro, venne dolcemente condotta a sedere accanto alla figlia. Con voce bassa e lugubre, l'uomo di Dio cominciò l'elogio del morto e la sua voce dolente, frammista ai singhiozzi che era suo scopo procurare e mantenere, si alzava e si spegneva. Sembrava avvicinarsi e allontanarsi come il rumore di un mare corrucciato. Mentre il pastore parlava, la giornata già tetra si fece decisamente cupa. Una coltre di nubi ammantò il cielo e si udirono cadere alcune gocce di pioggia. Sembrava che la natura intera piangesse John Mortonson. Quando il pastore ebbe completato il suo elogio con una preghiera, venne cantato un inno e gli addetti a portare il feretro presero posto accanto al catafalco. Mentre le ultime note dell'inno andavano spegnendosi, la vedova corse verso la bara e vi si gettò sopra e riprese a singhiozzare istericamente. Pian piano però riuscirono a dissuaderla e lei sembrò calmarsi, riacquistando una rassegnata compostezza. Mentre il pastore la stava conducendo via, i suoi occhi cercarono ancora una volta il viso del morto sotto il vetro. La donna levò le braccia in aria e con un grido lacerante cadde a terra svenuta. Gli incaricati del servizio funebre balzarono verso la bara, seguiti dagli amici, e mentre l'orologio sul caminetto batteva solennemente le 3, tutti fissarono il viso del defunto John Mortonson. Dovettero distogliere lo sguardo, colti da un malore. Un uomo che, terrorizzato, stava cercando di sfuggire a quell'orrenda vista, urtò il catafalco con tale impeto che uno dei fragili sostegni ruzzolò via. La bara precipitò sul pavimento e il vetro si ruppe in 1000 frantumi. Dall'apertura uscì il gatto di John Mortonson, che pigramente balzò giù, mettendosi a sedere sul pavimento, ripulendosi il muso rosso cremisi con una zampa. Quindi abbandonò la stanza con gran dignità. Avete ascoltato la lettura del racconto di Ambrose Bierce, Il funerale di John Mortonson, dal libro Olio di cane, Coniglio Editore, 96 pagine, 10,50 euro. Si intitola Tecniche di resurrezione, il nuovo romanzo di Gianfranco Manfredi, scrittore, cantautore e fumettista. Il protagonista è lo stesso del romanzo precedente, il dottor Valcourt de Valmont, medico francese fuggito in Inghilterra per evitare le persecuzioni della Rivoluzione francese. Questa volta Valcourt è coinvolto in uno dei primi esperimenti di galvanismo che un medico italiano sta applicando ai cadaveri, nella speranza di riuscire a riportarli in vita. Era il 17 gennaio 1803, lunedì. Valcourt de Valmont e il suo amico del cuore, l'attore Francis Archer, si stavano dirigendo alla volta del St. Bartholomew's Hospital per assistere a un esperimento scientifico. Solo 4 giorni prima, George Foster, un 26enne senza precedenti penali, era stato condotto in giudizio all'Old Bailey con l'accusa di aver ucciso sua moglie e il più piccolo dei loro 4 figli, annegandoli nel Paddington Canal. Il processo era stato del tutto indiziario. Nessun testimone aveva visto l'accusato compiere materialmente il duplice omicidio e dunque la sbrigativa condanna a morte che ne era seguita aveva sconcertato non poco la pubblica opinione. Tuttavia, ogni dubbio si era infine appianato. In attesa del patibolo, Foster si era liberato la coscienza confessando la propria colpa. Alle 8 di mattina di quello stesso 17 gennaio fu impiccato nel cortile della prigione di Newgate, dopodiché il suo corpo venne trasferito nel vicino ospedale, secondo consuetudine. Una legge del 1751-52, il cosiddetto Murder Act, prescriveva che i corpi dei condannati a morte per omicidio venissero dissezionati dai chirurghi. Non si trattava di una concessione agli studi anatomici, di cui agli estensori della legge non importava assolutamente nulla, ma di una pena supplettiva. Londra non disponeva all'epoca di un servizio di polizia paragonabile alla gendarmerie francese. La prevenzione dei reati era impossibile e la criminalità aumentava di continuo. Detenzioni prolungate avrebbero sovraffollato in breve tempo le carceri, fino a farle esplodere. Di conseguenza, la pena di morte la si comminava con eccessiva disinvoltura, anche per un semplice furto. Ma i giuristi si erano chiesti come mantenere all'omicidio uno status di crimine più grave? E soprattutto, come rendere più temibile la pena, al fine di scoraggiarlo? E la risposta era stata fare a pezzi i cadaveri degli assassini dopo l'esecuzione. Il cadavere di Foster, dopo essere stato refrigerato per un'ora, venne consegnato al professore Giovanni Aldini per un esperimento galvanico. Aldini, nipote dell'illustre fisiologo e anatomista Luigi Galvani, massimo esponente con Alessandro Volta degli studi sull'energia elettrica, aveva già compiuto a Bologna e altrove diversi trattamenti elettrici su cadaveri veri o presunti, come quelli degli annegati che era riuscito prodigiosamente a rianimare. Gli esperimenti non avevano tuttavia un intento terapeutico. Erano mirati a dimostrare come masse muscolari prive di vita reagissero ad adeguate stimolazioni elettriche. Aldini ufficialmente non mancava di precisare che intendeva limitarsi allo studio dell'elettricità animale, che egli riteneva risiedere nelle membra e dei poteri vitali insiti in questa energia, ma neppure negava che in determinate condizioni si potesse ottenere molto di più, e cioè riportare in vita i morti. La questione implicava problematiche di tipo strettamente giudiziario. Se un uomo era stato condannato a morte e giustiziato, era legittimo appellarsi al Murder Act per rianimarlo? E in caso di successo, come ci si sarebbe dovuti comportare? Infliggere al condannato una seconda esecuzione? O lasciarlo in vita, a dispetto della sentenza? La natura sensazionalistica della dimostrazione e le implicazioni legali avevano consigliato al presidente del Royal College of Surgeons estrema prudenza. Il cadavere venne scoperto, completamente rasato. Massa muscolare imponente, intorno al collo spiccava il segno violaceo lasciato dal cappio, unica traccia della morte violenta. Perché per il resto Forster pareva ormai al di là di ogni possibile patimento, una creatura d'una purezza quasi aliena, perfettamente conservata come un remoto esemplare della stirpe d'Adamo appena recuperato dai ghiacci eterni del polo. Giovanni Aldini, un quarantenne dall'aspetto arcigno, con un gran naso a becco e un vistoso ciuffo aquilino, esordì con una salva di ringraziamenti. Dopodiché, con una solennità che a Valcour suonò turva, annunciò che gli esperimenti galvanici che si apprestava a compiere non erano mai stati tentati prima d'allora su persone condotte a morte in simile maniera. Pareva il proclama di uno di quegli imbonitori da fiera che invitavano gli ingenui all'ennesima replica della solita impresa mai tentata prima. Valcour volle partecipare questa sua riflessione a François e s'accorse che dormiva come un ghiro. Lo svegliò, rifilandogli una gomitata. In quel momento Aldini stava illustrando l'apparato. Il galvanismo verrà trasmesso attraverso tre pile combinate, ciascuna delle quali contiene 40 placche di zinco e altrettante di rame. In questo primo esperimento applicherò un arco elettrico alla bocca e un altro all'orecchio, umettato con una soluzione di cloruro di sodio. Hutchins applicò gli elettrodi. La mascella di Foster cominciò a tremare. I muscoli contigui si contrassero e l'occhio sinistro si spalancò. Un cupo mormorio si sparse per l'anfiteatro. Nel successivo esperimento, gli archi elettrici vennero applicati a entrambe le orecchie e l'intero volto del morto reagì in smorfie convulse che coinvolsero le labbra e le palpebre, per poi manifestarsi ancor più vistosamente quando uno degli archi venne spostato sulle narici. «Quel Foster è bravissimo», commentò Francis. «Grande controllo della maschera. Ma che stai dicendo?» Credi sia facile esibire una simile padronanza dei muscoli facciali? Foster riesce a simulare dei movimenti involontari. Valcour perse la pazienza. Il gioco non lo divertiva più. Sono movimenti involontari. Francis Foster è morto, non l'hai ancora capito? Non finge d'essere un cadavere. Lo è veramente. Lo hanno impiccato un paio d'ore fa. Ma questo cambia tutto, replicò l'altro parecchio deluso. Il terzo esperimento Francis non lo vide neppure perché era ripiombato in letargo e stavolta Valcour ebbe cura di non svegliarlo. Al cadavere venne applicato un arco al retto e l'intera muscolatura, anche nei punti più distanti dal contatto, prese a sussultare come se Foster stesse reagendo a un'insopportabile tortura. Aldini parve voler concedere una pausa alla povera cavia e al pubblico, rimuovendo gli elettrodi e limitandosi a sollecitare il cadavere con dell'ammoniaca. Nessuna reazione. Aldini non mancò di sottolinearlo e annunciò il quarto esperimento. Ora avrebbe usato simultaneamente le sollecitazioni elettriche e l'ammoniaca. Le contrazioni diffuse si fecero più violente e si estesero ai muscoli del collo e al deltoide. Un braccio parve sul punto di sollevarsi teso. In sala nessuno più fiatava. Il povero bidello, smarrita definitivamente ogni compostezza, si reggeva con una spalla alla gradinata. Il cappello gli era scivolato di sghimbescio, facendolo sembrare uno spaventapasseri. Aldini ammise che il risultato aveva superato le sue aspettative e aggiunse che forse a un corpo di così robusta costituzione si sarebbe potuto restituire vitalità, se troppe circostanze non lo rendessero impossibile. Senza successo, il nono esperimento, direttamente sul cuore in situ. L'induzione di energia elettrica non provocò la minima contrazione né in superficie né ai ventricoli. Tra annunci, dissezioni, valutazioni e lunghe pause per rinnovare le pile, erano ormai passate 7 ore e mezza dall'esecuzione. Nell'aula faceva molto caldo e nel chiuso la puzza degli acidi e delle bruciature ristagnava dando alla testa. Nel corso del 15° e ultimo esperimento, sul nervo sciatico, si notarono violente contrazioni addominali e un nuovo e più pronunciato accenno di sollevamento del braccio. Il bidello, Mr. Pass, parve avvertire la scossa su di sé. Solo il senso del dovere lo trattenne in posizione. «Quando la faranno finita?» si chiese angosciato. A dispetto dell'agitazione, provava uno strano torpore. Si serrò un bicipite e gli sembrò di affondare le dita in una spugna. Aldini concluse senza trionfalismi, asserendo anzi con una punta di rincrescimento che con un apparato galvanico più potente di quello predisposto per l'occasione, gli effetti sarebbero stati più vistosi. La maggior parte dei convenuti stava già sfollando. Era tempo di svegliare Francis, ma Valcour venne distratto da un rumore strascicato. Il bidello cianotico si muoveva in direzione contraria al flusso degli studiosi in uscita. Stava cercando di raggiungere un sedile, ma si muoveva con estrema difficoltà, finché non riuscì più a reggersi in piedi. Nessuno, a parte Valcour, si accorse della caduta. I pochi rimasti in sala erano radunati a capannello intorno ad Aldini. Gli inservienti erano occupati a trasferire il cadavere di Foster su una barella. Valcour si precipitò a soccorrere il povero uomo. Era svenuto e non rispondeva alle sollecitazioni. La fronte era imperlata di sudore freddo. Il battito cardiaco, inavvertibile. «Kate!» gridò Valcour. «Il bidello ha avuto un attacco di cuore. Qualcuno mi aiuti a trasportarlo sul tavolo anatomico. Presto!» Pur nella confusione dell'emergenza, si provvide a distendere l'infartuato sul tavolo e a spogliarlo. «Povero Pass!» sospirò Kate sconfortato dopo averlo attentamente auscultato. «Se solo avesse segnalato per tempo il suo malessere. Ormai è troppo tardi. Il cuore si è fermato.» Con un gesto, Valcour bloccò Cat Berson che stava rimuovendo l'ingombrante apparato galvanico. «No! Rimettetelo in posizione. Anche voi, Aldini, sbrigatevi!» «Che intendete fare?» replicò l'italiano ancora raggelato dall'incidente. «La scossa! Solo la scossa può rianimarlo. Devo essere io a spiegarvelo.» «Monsieur ha ragione», sostenne Carpieux. «Ci sono dei precedenti. Il dottor Carey ha documentato circa 10 anni fa 2 interventi di rianimazione attraverso la somministrazione di scosse elettriche coronati da pieno successo. E più recentemente il dottor Squires ne ha personalmente eseguito un altro qui a Londra, al Middlesex Hospital.» Aldini continuava a esitare. «Le pile sono quasi scariche.» «Rinnovale allora», lo sollecitò Valcour. «Bisturi.» Webb si affrettò a porgerglielo e Valcour operò una broncotomia. Un unico taglio, rapido e sicuro. «Cannula.» Hutchins gliela passò prontamente. Valcour la inserì e insufflò. Poi ordinò ad Aldini di mettere in contatto gli archi con la cassa toracica, indicandogli i punti precisi. Dopo un paio di sollecitazioni elettriche che fecero sussultare il corpo, Valcour giudicò sufficienti le scosse e sollevò una mano. Pochi secondi di inquieta attesa che parvero durare un'eternità e finalmente Pass diede cenni di ripresa. «Respira!» esclamò Kate incredulo. Il respiro, da affannoso, si fece mozzo. «Sta per vomitare!» rilevò Valcour. «Sollevatelo!» Gli assistenti, Webb e Hutchins, tirarono su il bidello reggendogli le spalle e la nuca. Dopo che ebbe rigurgitato sempre su ordine di Valcour, tornarono a coricarlo in posizione distesa. Gradatamente il respiro divenne più regolare, gli occhi si agitavano sperduti e le contrazioni del volto manifestavano un'inesprimibile sofferenza. Valcour medicò la ferita e fasciò accuratamente il petto con un bendaggio a X. «Va ricoverato con estrema urgenza», disse infine. «Somministrategli degli antidolorifici e tenetelo a riposo». Risuonò un applauso solitario. Si era rianimato anche Francis. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Gianfranco Manfredi, Tecniche di resurrezione, Gargoyle Editore, 496 pagine, 18 euro. Archeologo, medievalista, rettore di due dei più importanti college inglesi, Montag Rhodes James è passato alla storia soprattutto per le sue ghost stories. Ne scriveva una all'anno a Natale, che nella tradizione inglese era il momento in cui la famiglia si raccoglieva per ascoltare racconti di fantasmi. Uno di questi, intitolato Topi, si svolge nel 1770 nelle campagne del Suffolk. In una giornata di primavera, il giovane Thompson, studente di Cambridge, si reca in una locanda di proprietà del signor Betts per trovare un po' di solitudine e dedicarsi allo studio. Un bellissimo pomeriggio, verso le tre, era ancora indaffarato a scrivere. A un certo punto si stiracchiò, si alzò e uscì nel corridoio. Di fronte alla sua stanza ce n'era un'altra, poi la sommità delle scale, quindi ancora altre tre stanze, due che davano sul retro, la terza verso sud. Si diresse verso quest'ultima. La trovò chiusa a chiave, ma ormai in preda a una curiosità quasi infantile, e pensando pure che in un luogo così facilmente accessibile non potesse in fondo celarsi nulla di compromettente, volle provare ad aprire con la chiave della propria stanza. E poi, visto che non funzionava, raccolse anche quelle delle altre tre. Una di queste funzionò e aprì la porta. La stanza aveva due finestre che guardavano a sud e a est, sicché era assai luminosa e calda, così ben esposta al sole. Niente tappeto sul pavimento, niente quadri alle pareti, niente lavamano. Solo un letto nell'angolo più remoto, un letto di ferro con materasso e cuscino e un copriletto azzurro a quadri. Difficile immaginare una stanza più disadorna e anonima, eppure lì dentro c'era qualcosa che indusse Thompson a richiudere in fretta la porta e ad appoggiarsi al davanzale della finestra del corridoio, tremando dalla testa ai piedi. Il fatto è che sotto il copriletto azzurro stava disteso qualcuno e si muoveva. Che si trattasse di qualcuno e non di qualcosa era sicuro, perché sul cuscino si vedeva indiscutibilmente la forma di una testa, ma era coperta. E nessuno giace con la testa coperta se non un morto. Però quello non poteva essere un morto, perché ondeggiava e palpitava tutto. Se Thompson avesse visto queste cose al crepuscolo o alla luce tremolante di una candela, si sarebbe tranquillizzato attribuendole a qualche scherzo della fantasia. Ma in un giorno così, a quell'ora e con quella luce, era impossibile dubitare. Che cosa doveva fare? Beh, prima di tutto chiudere di nuovo a chiave la porta. Con estrema cautela si avvicinò di nuovo all'uscio e rimase in ascolto, curvo, trattenendo il fiato. Forse gli sarebbe giunto all'orecchio, a mo' di prosaica spiegazione, il pesante russare di qualcuno che dormiva. E invece nulla. Il silenzio assoluto. Ma non appena con mano tremante infilò la chiave nella toppa e diede un giro, ecco che a quello scatto seguì immediatamente dall'altra parte un passo strascicato e incespicante che si dirigeva verso la porta. Thompson scappò via come un coniglio, andando a rinchiudersi nella sua stanza. Gesto futile, se ne rendeva conto molto bene. Se quanto temeva era vero, porte e serrature potevano forse servire a qualcosa? Ma sul momento non riuscì a fare altro. E, a essere sinceri, non accadde assolutamente nulla. Ci fu una fase di attesa spasmodica. seguita da profonde perplessità sul da farsi. Il primo impulso, come è naturale, era stato quello di fare le valigie e filarsela all'istante da una casa che ospitava un inquilino del genere, se non che proprio il giorno avanti aveva annunciato che si sarebbe trattenuto come minimo un'altra settimana. Cambiando programma adesso, com'era possibile evitare eventuali sospetti, compreso quello di aver cacciato il naso in posti che non lo riguardavano? E così restò per tutta la settimana prevista. Non ebbe più la tentazione di varcare quella soglia. Tuttavia, avvicinandosi ormai la fine della sua permanenza, avvertiva sempre più forte il bisogno di una qualsiasi spiegazione. Alla fine optò per questa soluzione. Sarebbe partito in treno il pomeriggio verso le 4. E mentre da basso i bagagli venivano caricati sulla vettura che lo avrebbe accompagnato alla stazione, lui avrebbe fatto un'ultima ispezione alla sua stanza per controllare di non aver dimenticato nulla. E allora, con la stessa chiave della volta precedente, avrebbe di nuovo aperto quella porta solo un istante e poi richiuso. E così andò. Il conto fu saldato. E una volta al piano superiore, cercando di fare il meno rumore possibile, Thompson si accostò con passo furtivo alla porta e l'aprì. Il crollo di ogni illusione. Appoggiato, per non dire seduto sul bordo del letto, non c'era altro che uno spaventapasseri. Il vecchio spaventapasseri dell'orto, naturalmente, buttato là nella stanza in disuso. Ma a questo punto finì il divertimento. Gli spaventapasseri hanno forse mani e piedi scheletrici? Gli penzola la testa sulle spalle? Hanno anelli di ferro e catene attorno al collo? Possono forse alzarsi e camminare, anche se rigidamente, attraverso una stanza, scrollando il capo e muovendo le mani lungo i fianchi? E possono fremere. Al tonfo della porta sbattuta, al balzo sul pianerottolo, al precipitarsi a capofitto giù per le scale, tenne seguito uno svenimento. Quando tornò in sé, Thompson vide Mr. Betts chino su di lui con una bottiglia di brandy in mano e un'espressione accorata sul viso. «Oh, non avreste dovuto farlo, signore. No, proprio non avreste dovuto. Non ci si comporta così con persone che si sono fatte in quattro per voi». In seguito Thompson ricordò di aver udito queste parole, ma non riuscì mai a ricordare ciò che aveva detto in risposta. E dal momento che ormai aveva perso il treno, decisero di accompagnarlo a pernottare in paese. Prima che partisse, però, i due albergatori gli riferirono quel poco che sapevano. Era il padrone di qui parecchio tempo fa, o almeno così raccontano, e pare che se le intendesse con i briganti che battevano la brughiera nei dintorni. È per questo che ha fatto una brutta fine. Lo appesero in catene, così dicono, lì su quella pietra che avete visto. Quella era la pietra su cui stava piazzata la forca. I pescatori un bel giorno l'hanno buttata giù perché si vedeva dal mare e a sentire loro faceva scappare i pesci. Sì, ce l'hanno raccontato quelli che gestivano la locanda prima di noi. Voi ricordatevi sempre di tenere quella porta chiusa bene a chiave, ci hanno raccomandato. Ma lasciate dentro il letto, vedrete che non ci saranno fastidi. E infatti non ce ne sono stati, mai una volta che sia uscito da quella stanza, anche se non si capisce bene che cosa ci stia a fare. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi del racconto di Montague Rhodes James, Topi, dal libro Il tesoro dell'abate Thomas, Coniglio editore, 110 pagine, 10,50 euro.